Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Pioggia e alluvioni, un disperso in Val Chisone, continuano a preoccupare le piene del Po e del Tanaro in Liguria. 100 milioni di danni, dice l'assessore. E a Roma un nubifragio nel giorno dello sciopero dei mezzi pubblici crea gravi difficoltà, chiuse le metro A e C, il garante chiede chiarimenti all'ATAC. Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, reati tutti in calo, dice il ministro dell'interno Alfano, 116 le donne uccise dall'inizio dell'anno. Dopo lo stop dell'Europarlamento ai negoziati di adesione, la Turchia torna a minacciare, apriremo le frontiere ai migranti. E Torino, dopo la rivolta dei migranti appunto all'ex villaggio olimpico, il prefetto avrebbe chiesto 50 uomini dell'esercito per presidiare la zona. Il nuovo piano anticorruzione non piace ai vigili della capitale, sono contrari alla rotazione, rischi di agitazioni simili a quella di Capodanno. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno, @radio24.it se ci volete scrivere. In apertura andiamo nelle zone colpite dall'alluvione. Raffaella Calandra, dove ti trovi, cosa ci puoi raccontare? Buongiorno. Sì, buongiorno. In questo momento ora mi trovo ad Alessandria, proprio sugli argini del Tanaro, poco lontano dalla confluenza col Bormida, che è il punto che ora preoccupa di più, perché il livello del fiume sta progressivamente salendo, è già più alto delle case e la piena qui è attesa nel primo pomeriggio. Le strade provinciali sono state chiuse qui intorno e ora qui stanno arrivando anche gli abitanti della zona, che al dire il vero si sentono rasserenati dalla presenza appunto di questi argini innalzati dopo l'alluvione devastante del 94, ma ci sono ancora baracche e vegetazioni a creare delle strozzature, raccontano i più anziani. Sentiamo. Per me non è preoccupante, poi se arriva un'ondata tremenda è un altro discorso. Come avete passata questa notte? Ho dormito, anche perché se non, come è capitato nel 94, se non arrivano ondate anomale rimane sotto controllo, perché adesso effettivamente hanno alzato gli argini, i ponti li hanno alzati, quindi sono intervenuti. Quindi adesso si è qui davanti sull'argine un po' per controllare. Certamente, già il livello si vede è più alto della quota delle abitazioni, però c'è un argine che nel 94 non c'era, questo. E che vi fa stare adesso più tranquilli? Sì, relativamente, secondo me, finché non arriva l'onda che ancora non è arrivata, il livello giusto ancora non è, si alzerà anche ora di parecchio, stando alle previsioni. Il fiume ha lasciato però dietro di sé, soprattutto nelle province di Cuneo e Asti e sull'asse verso Saluzzo, frazioni ancora inondate dall'acqua, paesi che ora fanno i conti col fango. In Val Chisoni un uomo, come ricordavi nei titoli, è disperso ed è stato travolto dalla fiume della Pellice mentre cercava di mettere in salvo i cavalli, e abbiamo incontrato allevatori che nella notte hanno cercato di mettere appunto in salvo i propri animali da queste campagne che sono inondate dall'acqua, campagne che tra l'altro sono ben note anche per le loro coltivazioni, a cominciare dal vino, per cui si dovrà ancora andare a vedere l'effettiva stima dei danni in questa zona, ma si preannuncia assai alta, proprio come in Liguria. Simone. Ti ringrazio, grazie a Raffaella Calandra, che già dunque accennava alla Liguria, dove una prima stima fatta dall'assessore della Regione Liguria parla di 100 milioni di danni. Notizia di poco fa, il ponte di Brigneta nel comune di Bardineto, alle spalle di Borghetto Santo Spirito, siamo nel Savonese, è crollato. Il ponte a Principi è seriamente lesionato dopo la piena del Bormida, da buona parte del paese in blackout elettrico e idrico. Gran parte dell'allerta però in Liguria è rientrata. Oggi è arrivato in loco il capo della Protezione Civile Curcio, sentiamolo intervistato da Andrea Ferro. Il Piemonte stamattina abbiamo fatto un sopralluogo, diciamo, alla sala operativa. Ovviamente la situazione è severa, perché come in Liguria è caduta una quantità di acqua veramente notevole. Anche in quel caso c'è stata una gestione direi straordinaria della regione, ma non solo della regione. Quando parlo della regione parlo dell'organizzazione regionale, quindi delle prefetture che hanno governato i CCS, dei sindaci che hanno aperto i centri comunali di coordinamento. E in questo discorso ci metto anche la risposta dei cittadini, perché come dicevamo prima il rapporto tra il cittadino e il sindaco è un po' il sale di questa, della gestione comportamentale. Quindi, evento eccezionale? Ma certamente i valori, come dire, di pioggia caduti lo dimostrano. Poi anche qua dipende da come misuriamo l'eccezionalità dell'evento. Se lo misuriamo dagli effetti al suolo è un conto, se lo misuriamo dalle persone disperse o decedute è un altro, se lo misuriamo rispetto a quanto è piovuto sono valori assolutamente impressionanti. Così dunque Curcio, poi c'è l'altro fronte al di là della risposta della Protezione Civile, che è quello dei lavori che possono essere fatti per mettere in sicurezza il territorio. Di questo ha parlato oggi il Presidente del Consiglio Matteo Renzi a Torino. Sentiamolo. Qui i lavori che sono stati fatti hanno permesso di evitare il disastro dell'altra volta. Aspettiamo però, i danni li contiamo alla fine. Quindi detto questo vale il principio di accelerare. E tutto ciò che può essere sbloccato, essendoci soldi, è allucinante che non si spendano. Così Renzi, Tanaro, dunque, che torna a mettere paura dopo l'alluvione del 1994, quella che fece 70 vittime. A questa è dedicata l'analisi del venerdì di Daniele Biacchessi. Le immagini spaventose dell'onda di piena del fiume Tanaro che si abbatte sul paese di Garesio nel Cuneese ci riportano indietro di 22 anni. Tra il 5 e il 6 novembre 1994 le province di Cuneo, Torino, Asti e Alessandria vennero quasi per intero allagate dall'esondazione dei fiumi Po, Tanaro, Bormida e dal torrente Belbo. 70 vittime, 2.226 sfollati, una economia in ginocchio. Le immagini delle merendine che galleggiavano nei cortili della fabbrica Ferrero di Alba fecero il giro del mondo. E oggi, esattamente come allora, due fiumi da sempre instabili tra ottobre e novembre, il Tanaro e la Bormida, tornano a fare paura e a esondare più o meno negli stessi luoghi di 22 anni fa. Proprio come i loro affluenti, minuscoli torrenti che si trasformano in enormi bacini d'acqua turbolenti durante le piene. Eppure il tempo è passato, la cultura della protezione civile è migliorata, i soldi della ricostruzione delle alluvioni del 94 sono stati impiegati per migliorare i canali di scolmamento, per rafforzare gli argini, per difendere i punti deboli. Le tecnologie possono offrire spunti di prevenzione con un discreto scatto di approssimazione, ma non sembra bastare. Ed è soprattutto il Tanaro, il fiume imprevedibile e instabile, che dal 1948 non lascia in pace gli abitanti dei tanti bei borghi che attraversa. Mettere in campo un forte piano di risanamento idrologico di tutti gli affluenti del Po, soprattutto del Tanaro, diventa ancora oggi una priorità nazionale. Così dunque Daniele Biacchessi. Molto abbiamo parlato del nord Italia, ma il maltempo ha colpito anche il mezzogiorno e oggi in particolare la Calabria. Il maltempo non dà tregua nel tratto ionico della Calabria. La linea ferroviaria tra Bovalino e Ferruzzano nella Locride è interrotta, così come la statale 106, a causa di alcune frane dovute alla pioggia torrenziale che sta cadendo ormai da diverse ore. Il paesino di Careri è al momento isolato, ma non ci sono pericoli per la popolazione, dice il capo della Protezione Civile regionale Carlo Tanzi. Noi abbiamo immediatamente attivato il COM presso comune di Bianco, che è baricentrico come area, e abbiamo inviato una nostra colonna mobile con mezzi di Movimento Terra, abbiamo attivato l'associazione di volontariato, tutto il nostro personale tecnico presente sul territorio. Attualmente non ci risultano situazioni di pericolo per le persone. Già la settimana scorsa a Bruzzano Zeffirio, a causa del maltempo, si era letteralmente sgretolato un ponte, rendendo inaccessibile la zona. A Siderno intanto, a scopo precauzionale, le scuole sono state chiuse. Disagi anche nel Crotonese, a Petilia Policastro, dove è stata chiusa la stazione dei Pullman. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. Un venerdì di maltempo anche a Roma, un venerdì con un nubifragio, un venerdì nel quale arriva anche lo sciopero dei mezzi. Chiara Piselli, la situazione, buongiorno, dove ti trovi? Simone, buongiorno, mattinata difficile, io sono alla stazione Termini, snodo tra le due metro A e B e capolinea di decine di autobus, oggi appunto fermi, come dicevi, fate eccezione per le fasce di garanzia, lo stop di ATAC di 24 ore ha provocato, come sempre tra l'altro, grande caos sulle strade per tutta la mattinata, assalto ai taxi, file lunghissime qui in stazione per accaparrarsene uno, traffico in tilt che ha paralizzato quasi tutti i quadranti della città, non solo appunto per questo sciopero dei trasporti, ma anche per il maltempo, piovuto per molte ore della mattinata. Ora in questo momento non sta piovendo, ma comunque il cielo non promette bene. Pesanti disagi per allagamenti, bloccate per esempio Piazza San Giovanni, la circonvallazione Aurelia, anche qualche incidente, come ad esempio sulla Cristoforo Colombo, dove si sono registrate code lunghe con altrettanto lunghi tempi d'attesa. Twitter, la valvola di sfogo per molti cittadini, l'hashtag Sciopero Roma è stato tra i trend topic per tutta la mattina. Critico l'assessore ai trasporti Meleo, non saremo saggio di chi vuole tenerci sotto scacco con la continua minaccia di scioperi, ha detto. Alla fine sono sempre i romani a pagare sulla propria pelle le mobilitazioni della città. È tutto da qui e dalla stazione Termini, Simone. Grazie Chiara Piselli, è il garante per gli scioperi. Giuseppe Santoro Passarelli ha fatto sapere che chiederà all'ATAC informazioni puntuali e urgenti. Perché? Perché il sindacato che ha proclamato lo sciopero oggi, nel corso dell'ultima astensione proclamata il 20 maggio scorso, aveva raccolto il 2,6% delle adesioni sull'esercizio della metropolitana. Ebbene però l'ATAC oggi ha deciso di chiudere le linee A e C. Ci saranno sicuramente chiarimenti, sicuramente se ne parlerà di Roma, poi torneremo a parlare anche più avanti. Siamo al referendum. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Campagna elettorale, Simone, che continua ad animarsi più per le accuse reciproche tra gli schieramenti e sugli scenari post-voto che sui contenuti. E di pochi minuti fa allora la considerazione su questo della Presidente della Camera Boldrini. Questa campagna ha assunto toni insopportabili, è pessima, dice la Boldrini. Chi come me è contrario all'odio e al degrado nella vita pubblica non si trova a proprio agio. Questi toni non incoraggiano al voto, allontanano gli elettori. A questi ultimi intanto il Presidente del Consiglio Renzi ricorda, nel fronte del no ci sono 5 ex premier che per anni ci hanno detto delle riforme, non le hanno fatte, poi se gli italiani vogliono affidarsi a loro, prego, si accomodino. Quanto al 5 dicembre, se vince il no, Berlusconi al tavolo del confronto, fa capire Renzi, troverà Grillo e D'Alema e non me. Il capogruppo PD alla Camera Rosato richiama invece il dibattito ai contenuti, sentiamo allora Rosato. 63 governi in 70 anni, un governo ogni 14 mesi, neanche un bar riesce a non fallire con un'instabilità di questo tipo. Noi facciamo una riforma che dà stabilità al Paese, rafforza le garanzie democratiche, rende il Paese e le istituzioni più moderne ed efficienti, taglia i costi della politica e taglia gli enti inutili. Tante ragioni per dire sì, dopo 35 anni di dibattito, di promesse e di discussioni, finalmente arriviamo al dunque. Dal fronte del no, il Movimento 5 Stelle rimanda a domani alla marcia per la Costituzione che si terrà a Roma contro il referendum. Portate il simbolo del tricolore, chiede Di Maio. Renzi come la Clinton, appoggiato da finanzieri e lobbisti, dice Salvini, spero finisca nello stesso modo. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. L'altro fronte è quello della manovra. Modificata e approvata dalla Commissione Bilancio, la manovra approda ora in aula alla Camera. Nel pomeriggio è atteso il voto di fiducia sul provvedimento e lunedì il via libera definitivo. Poi la legge di bilancio passerà all'esame del Senato. Fra le novità introdotte in Commissione c'è l'ampliamento a 3.000 persone in più della platea per l'ottava salvaguardia degli esodati. Sempre sul fronte pensioni, opzione donna, ossia la possibilità di andare in pensione prima con un assegno interamente contributivo, sarà estesa a oltre 4.000 lavoratrici. Restano ancora aperti 3 capitoli che saranno affrontati durante l'esame della manovra in Senato. Palazzo Madama dovrà così sciogliere il nodo sull'estensione del bonus per le ristrutturazioni energetiche antisismiche agli incapienti e anche mettere mano alle misure che rafforzano la prevenzione antisismica e agli interventi sugli enti locali. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo al fronte dei migranti per parlare della Turchia che lancia nuove minacce. Un avvertimento senza mezzi termini, quello di Erdogan all'Europa. Se si spingerà troppo oltre, permetteremo ai rifugiati di passare dai valichi di frontiera verso i paesi europei. Torna a minacciare così una rottura dell'accordo sui migranti con Bruxelles, all'indomani del voto dell'Europarlamento che chiede il congelamento dei negoziati di adesione di Ankara. Infatti, la risoluzione approvata ieri dal Parlamento europeo chiede alla Commissione e ai governi europei di sospendere temporaneamente i negoziati di adesione della Turchia. Ed Erdogan rincara la dose. Non avete mai trattato l'umanità in modo onesto, dice, e non vi siete occupati delle persone in modo giusto. Non avete raccolto i bambini quando nel Mediterraneo arrivano sulle coste. Siamo noi che stiamo nutrendo circa 3,5 milioni di rifugiati in questo paese. Voi, continua Erdogan con le accuse, non avete mantenuto le promesse. A marzo Ankara e Bruxelles hanno firmato un accordo in cui la Turchia si impegna a tenere sul suo territorio i migranti diretti in Europa in cambio di 6 miliardi di aiuti per l'assistenza. Ma le autorità turche chiedono che venga sbloccato anche il capitolo della facilitazione dei visti. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. I dati raccontano di 116 donne uccise in Italia nei primi 10 mesi del 2016, più di una ogni 3 giorni, 18 bimbi orfani solo nell'ultimo mese. Anche se qualche segnale positivo si registra, li cita oggi il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, che dice che negli ultimi 12 mesi sono diminuite le lesioni dell'11%, le percosse del 19%, le minacce del 16%, i maltrattamenti in famiglia del 6%. E lo stalking dell'11%, le donne morte per femminicidio sono il numero è sceso del 3% secondo Alfano. È cresciuta anche la consapevolezza negli ultimi anni grazie al ruolo dei centri antiviolenza, dove si trova conforto nell'anonimato. 10.000 persone dal 2001 oggi si sono rivolte a Milano alla cooperativa sociale Cerchi d'Acqua, storie di donne maltrattate, tutte drammaticamente simili, ha raccontato ad Anna Rita D'Ambrosio la presidente Graziella Mazzoli. C'è una modalità comune, nel senso che la donna da prima non si rende conto di essere in una situazione di violenza, soprattutto nella violenza psicologica, mentre con la violenza fisica chiaramente, dovendo magari ricorrere a un pronto soccorso, naturalmente la cosa emerge molto più velocemente. Riguarda tutti, donne che subiscono violenza sono, secondo i nostri dati, occupati al 65%, e di cui il 63% è con professionalità medio-alta, per cui anche lo stereotipo del degrado e della situazione di disagio e di miseria, diciamo, con vizi tipo alcolismo che sicuramente peggiorano certe situazioni, ma non è detto che questo, per esempio gli uomini che agiscono la violenza, che sono di nazionalità italiana per l'81%, il 70% è di professionalità medio-alta, quindi la trasversalità del fenomeno. Torneremo più avanti in Effetto Giorno a parlare di questa giornata con una storia dal territorio. Intanto, prima di chiudere questa parte della trasmissione, ci occupiamo di calcio e ci occupiamo della non bellissima figura delle italiane ieri in Europa League. Italia che tra l'altro ha perso giusto ieri, se non erro, 4 posizioni nella classifica internazionale, no Carlo Genta? Sì, sei molto gentile a dire non brillante serata delle italiane in Europa League. Direi che la parola data è disastro, a cominciare dall'Inter, che è ormai un caso forse da psicoterapia. Vinceva 2-0 sul campo dell'Hapoel Beersheva in Israele, in pieno controllo della partita, è riuscita con un secondo tempo disastroso a farsi rimontare e a perdere 3-2. Chi fa sul serio è invece la Roma, che vince d'imperio 4-1 con il Viktoria Pilsen, sempre nel segno di Dzeko, a segno 3 volte e più che mai nuova superstar giallorossa. Roma che dunque passa il turno, così come passerà il turno, salvo improbabili combinazioni, praticamente impossibili, la Fiorentina, nonostante la sconfitta interna 3-2 con il PAOK Salonicco. Finisce l'avventura europea del Sassuolo con una sconfitta 3-2 sul campo dell'Atletico Bilbao, e questo è il prodotto della serata dell'Europa League. Ma un Inter così davvero, dopo il derby, non te l'aspettavi, ne parleremo dopo. E grazie Carlo Genta, quindi immagino chiameranno numerosi gli interisti a partire dalle 14. Grazie Carlo, ci si risente dopo con tutti i convocati, traffico, e poi ci ritroviamo con il nostro giro per l'Italia. Ritorneremo a Torino innanzitutto, non per parlare in questo caso del maltempo, ma della protesta che c'è stata da parte degli immigrati che occupano alcune palazzine dell'ex villaggio olimpico. A tra poco. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte abbiamo parlato ampiamente della pioggia, delle alluvioni che hanno colpito soprattutto il nord Italia, ma anche la Calabria. E arrivano in questi minuti notizie di un'emergenza che riguarda molti comuni agrigentini. Ci sono allagamenti e strade chiuse, soprattutto nella zona di Sciacca, da quel che apprendiamo. Appena avremo notizie ci torneremo. Abbiamo parlato del nubifragio a Roma e dello sciopero dei mezzi, anche su questo torneremo più avanti. Abbiamo parlato della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, abbiamo parlato della minaccia turca. Apriremo le frontiere ai migranti dopo lo stop dell'Europarlamento ai negoziati di adesione. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e torniamo a Torino, dove in realtà siamo già stati ieri nell'ex villaggio olimpico. Ci sono alcune palazzine occupate da migranti, profughi, richiedenti asilo, ed è scoppiata una rivolta nelle scorse ore perché sono state lanciate delle bombe carta contro queste palazzine a seguito, a quanto pare, di un diverbio avvenuto in un bar. Il prefetto avrebbe chiesto 50 uomini dell'esercito per presidio permanente. Siamo in linea con Davide Ricca, che è presidente della circoscrizione 8 di Torino, Lingotto, Filadelfia, che in realtà è una circoscrizione enorme di 130.000 abitanti, ma che tiene dentro anche questa parte di territorio torinese. Ricca, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, ci dà un quadro della situazione, di com'è la situazione là, per gentilezza? Situazione è molto tesa, perché gli episodi sono stati episodi che hanno scosso moltissimo il quartiere, un quartiere che sta soffrendo questa occupazione dal 2013, quindi stiamo parlando di 3 anni, non è una cosa recentissima legata agli ultimi fenomeni migratori. C'è molta paura, si respira molta paura, paura sia dei residenti sia degli occupanti. Il problema grosso è proprio la paura. In questo momento tutti hanno paura e qualsiasi episodio potrebbe far scattare episodi di violenza, come è successo l'altra sera. Hanno paura, lei dice, sia i residenti per ovvi motivi, per motivi di degrado, no? che si possono creare intorno a questa situazione, e dall'altra parte anche chi occupa queste palazzine, perché dopo le bombe carta dice siamo a rischio, no? Mi sembra di aver capito. Sì, loro ieri hanno denunciato questa situazione, l'hanno denunciata scendendo per strada, è la prima volta che succede, è successo l'altro ieri sera e di nuovo ieri mattina, è la prima volta che lo fanno, denunciano la mancanza di attenzione, sapendo che in realtà lì c'è un fenomeno di illegalità diffusa, un'occupazione vera e propria di 4 palazzi. Perché mi scusi Ricca, per me la cosa sulla quale ragionavo io è che secondo me non è normale che in un quartiere, tra l'altro un buon quartiere tutto sommato, ci siano delle palazzine occupate da persone che non si sa esattamente da dove arrivino e sono 200, mi sembra. No, le persone che occupano le 4 palazzine sono almeno 1200. Sono su 4 palazzine di un complesso più ampio. Sono le ex palazzine che occupavano il villaggio olimpico ai tempi delle Olimpiadi invernali, quindi stiamo parlando delle Olimpiadi invernali di Torino. Sono a 500 metri dalla zona fieristica del Lingotto. Dietro, subito dietro, per capirci, c'è l'arco olimpico che unisce due quartieri, che era il simbolo della Torino olimpica. Non è normale questa. Quando decreto Maroni, finirono i soldi per la vecchia emergenza, se ricordiamo, dopo le primavere arabi, il primo flusso migratorio, ci fu una prima occupazione, l'occupazione è andata avanti fino alle 4 palazzine, tra l'altro in condizioni igienico-sanitarie assolutamente devastanti, pazzesco, non umane. Quindi è necessaria una soluzione abitativa alternativa allo sgombero delle palazzine, come annunciato dalla sindaca in accordo col prefetto. Questa cosa però deve basta annunci. Senta una cosa, ma l'esercito serve secondo lei? Ci vuole? Il presidio delle forze dell'ordine assolutamente serve. Serve che sia presidiata quella zona, serve che siano presidiate altre zone del quartiere, perché ormai la tensione è molto ampia in altre zone. Lì dietro c'è lo stadio Filadelfia, lo stadio storico del Torino che verrà inaugurato l'anno prossimo, che è un luogo dove si incontrano anche tifosi del Toro. Ci sono delle zone ad alto rischio e tutto quel territorio in questo momento è ad alto rischio. Assolutamente sì, ieri il prefetto mi ha chiamato, mi ha detto che avrebbe adottato queste misure, che ovviamente lui è dalla parte di chi costruisce, insomma si gestiscono soluzioni su chi vuole costruire, non su chi vuole rompere. In questo momento chi butta benzina sul fuoco non fa il bene del territorio. La ringrazio, grazie Davide Ricca, presidente della circoscrizione 8 di Torino, Lingotto, Filadelfia. È venerdì, come sapete ogni tanto ci prendiamo una storia, per così dire, un po' più leggera, e la storia che ci prendiamo oggi arriva da Roma e l'abbiamo pescata sul quotidiano La Repubblica e racconta di un liceo scientifico di Roma, il liceo Azzarita, che si trova ai Parioli, nel quale a quanto pare sono intervenuti i genitori a sgomberare il liceo occupato, a quanto pare con schiaffi e spintoni. Roberto Guerra, che è il preside, il dirigente scolastico, buongiorno. Che cosa è successo? Buongiorno, è successo che semplicemente è arrivata anche nella nostra scuola un'ondata di protesta dei ragazzi che manifestano il loro disagio, ma che soprattutto vogliono essere ascoltati dai docenti, dai presidi ed anche dagli stessi genitori. Ma nella fattispecie poi è successo che nella giornata del mercoledì voi sapete ormai meglio di me quanto la rete ormai governi anche i nostri movimenti e le nostre azioni. Pertanto un gruppo di genitori si è autoconvocato, sono venuti qui e sono stati accolti a scuola per sì, tramite, tramite Gueli, immagino i mitici gruppi WhatsApp di classe siano maledetti. Esattamente, sì. Esattamente, perché ormai praticamente sanno più cose loro attraverso la rete tante volte che noi E quindi siamo si sono autoconvocati e sono arrivati a scuola mentre i ragazzi stavano proclamando l'occupazione o l'avevano già proclamata. E mentre i ragazzi protestavano si sono autoconvocati e sono visti in aula magna e stavano discutendo, perché poi ognuno ovviamente porta le proprie ragioni, perché certo, le ragioni dei ragazzi che occupano sono quelle, e diciamo le ragioni invece dei ragazzi che non vogliono occupare, che reclamano al diritto. Sì, quelli del sì e quelli del no, per rimanere in tema. Prego, sì, continui. Sì, sì. E niente, poi anzi, sembrava che lo spirito era quello che i genitori potessero, tra l'altro non sapevano chi avrebbero incontrato sopra, parlare con questi ragazzi e convincerli a desistere su questa iniziativa. Invece hanno fatto una vera e propria irruzione. Che cosa hanno fatto? No. Perché qualcuno dice hanno bussato, poi hanno aperto con violenza, schiaffi, spintoni. No. E tra l'altro, se c'è stato qualche diverbio o qualcosa, poi ho visto sia ragazzi che genitori stringersi la mano e farsi le reciproche scuse. Insomma, non esagerei. Quindi tutto tranquillo. Diciamo, ma l'occupazione è finita comunque? L'occupazione in realtà non c'è stata. C'è stato un tentativo. E devo dire una cosa, e questo mi preme dirlo, che tra l'altro nelle modalità sbagliate dei ragazzi, per carità, che insomma queste cose non devono assolutamente farle, ho visto un grande rispetto da parte loro per la scuola e per gli ambienti della scuola, perché appena io li ho incontrati mi hanno detto: presidi, stai tranquillo, non rubiamo niente, non rompiamo niente, noi alla nostra scuola ci teniamo. E così è stato, non registro danni e abbiamo ripreso oggi la normale attività. Grazie Roberto Gueli, preside del liceo scientifico Azzarita di Roma. È a Roma che rimarremo poi nella seconda parte della trasmissione per raccontarvi di questa nuova protesta dei vigili urbani della capitale contro i meccanismi di rotazione sul territorio previsti dall'autorità anticorruzione, dal piano anticorruzione della capitale. Per intenderci, ricordate la protesta di Capodanno con i vigili malati e tutto quanto? Nacque esattamente da una protesta dei vigili contro il piano anticorruzione. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: pioggia e alluvioni, c'è stato un disperso in Val Chisone, continuano a preoccupare le piene del Po e del Tanaro, problemi anche nell'Agrigentino e in Calabria. E a Roma un nubifragio nel giorno dello sciopero dei mezzi pubblici crea gravi difficoltà, chiuse le metro A e C, il garante chiede chiarimenti all'ATAC. È la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, reati tutti in calo, dice il ministro dell'interno Alfano. Dopo lo stop dell'Europarlamento ai negoziati di adesione, la Turchia torna a minacciare, apriremo le frontiere ai migranti, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, il nostro giro per l'Italia ci fa in realtà rimanere a Roma. Ricorderete tutti quanti, piano piano ci stiamo anche avvicinando a Capodanno, no? Quella protesta mascherata dei vigili della capitale a Capodanno, quella nella quale sostanzialmente si assentarono in massa, poi di fatto nella sostanza è finito che non pagherà nessuno, ma il problema potrebbe riproporsi. Perché? Perché i vigili protestarono per il piano di rotazione sul territorio previsto dal piano anticorruzione e voluto dall'allora capo appunto dei vigili urbani, dei vigili della capitale. Ebbene, è stato presentato un nuovo piano anticorruzione che prevede una rotazione sul territorio e i vigili protestano anche per questo piano anticorruzione. Simone Canettieri del Messaggero, ciao Simone, bentornato ai nostri ciao, microfoni. Ciao, buongiorno. buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, in una giornata tra l'altro piuttosto critica per la capitale, perché è in corso uno sciopero dei mezzi, c'è stato un nubifragio questa mattina, quindi qualche problema anche su questo fronte, si discute anche di questo tema. Che cosa vogliono i sindacati dei vigili? Allora, i sindacati dei vigili, per farla breve, vogliono essere coinvolti prima nel piano delle rotazioni, cioè loro si appellano a dei vecchi accordi sindacali che dice che comunque prima di far partire questo piano delle rotazioni ci deve essere il benestare delle mille sigle sindacali che costellano il corpo della Polizia Municipale di Roma. Allo stesso tempo poi c'è anche, quindi oltre al metodo, c'è anche una contestazione di merito, perché sostengono che la rotazione così come è stata concepita sia penalizzante, perché vengono cambiate le mansioni ai vigili, quindi chi per esempio stava ai campi nomadi adesso potrebbe andare a dirigere il traffico, insomma al centro di un incrocio, e quindi servirebbe la formazione. Fatto sta che Poi Simone, scusami, giusto per chiarire agli ascoltatori, il principio di questo piano di rotazione è questo: che se uno frequentando sempre lo stesso territorio e facendo sempre la stessa cosa rischia di, come dire, di cadere in tentazione, per così dire, e prendere una mazzetta, in realtà andandosene, no, spostandolo in un altro luogo a rotazione, e questa mazzetta non la può prendere più. Questo più o meno è il principio, certo, no? Per evitare, diciamo, i classici condizionamenti ambientali, per usare, no, un termine noto. Sì. E ovviamente cosa succede? Che trovare un accordo prima, dopo, diventa sempre complicato. Il corpo della Polizia Municipale ha provato a far partire intanto una prima tranche minima di vigili e farli ruotare all'interno dei municipi, però già c'è stato, insomma, le prime assemblee, sollevazioni, proteste. Tra lunedì e martedì ci sarà un nuovo incontro tra il capo dei vigili e le sigle sindacali, e a quel punto i sindacati hanno già detto, se il capo dei vigili non dovesse ritirare questo piano anticorruzione, noi andremo al giudice del lavoro, che tu prima ricordavi, la famosa vicenda di Capodanno. Alla fine ci fu un'ulteriore beffa, perché dopo, insomma, lo sciopero mascherato, l'epidemia di Capodanno, il giudice del lavoro accolse anche il ricorso e quindi annullò il piano antirotazione. Quindi ci fu, oltre il danno, l'ennesima beffa per Roma. Quindi è stato ripresentato questo piano anticorruzione, che poi, Simone, molto brevemente, in realtà la rotazione tocca ogni 5 anni i funzionari e ogni 7 anni i vigili che stanno in strada. Non mi sembra una roba pazzesca? Certo, ma infatti è proprio quello che dicevi sempre tu prima, cioè ci sono vigili che ovviamente battono la stessa via, lo stesso quartiere da 10 anni, e quindi a pensar male si fa peccato, ma come sai, a volte ci si prende, a volte ci si prende. Io dico spesso, perché più che a volte c'è il rischio che poi dopo alla fine magari si chiuda un occhio nei confronti no, del negozio alimentari che da anni si conosce, insomma c'è il rischio ovviamente, no, di un minimo di condizionamento. Ovviamente questa è una città molto complessa, in cui anche il potere di interdizione, come dimostra questa vicenda qua dei vigili, è altissimo, quindi c'è un tasso di corporazioni molto, molto, molto forti, che sono difficili, certo, da scardinare, e questo dei vigili, come oggi è stato il giorno dello sciopero, e anche questo, insomma, se pensiamo, le due vicende si guardano, no? Perché anche la vicenda dello sciopero di oggi è abbastanza surreale. Perché dici? Perché è una sigla che si chiama Cambiamenti, che rappresenta il 2,4% degli iscritti, è in grado di mettere, diciamo, in ginocchio un'intera città. Questo tra l'altro, come raccontavamo, c'è stato il garante che è intervenuto, perché ha detto ma come, questi rappresentano il 2,6% e voi fermate la metro A e la metro C per lo sciopero di questi qua, insomma, quindi anche sull'ATAC forse qualche interrogativo sarà da porcelo, insomma, no? Certo, verrebbe quasi da rimpiangere, non vorrei passare per antidemocratico, però il periodo del commissario, in cui comunque c'era un forte ricorso alla precettazione, quindi è giusto scioperare, un diritto sancito dalla Costituzione, ci mancherebbe anche il contrario, però è anche giusto tutelare il diritto della collettività, dei cittadini, quindi a muoversi. Certo. Allora Simone, io ti ringrazio, grazie a Simone Cannettieri del Messaggero per essere stato con noi. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.